Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. L'espansionista è il responsabile dello sviluppo immobiliare di un'azienda. Un mestiere strano e solitario, in cui ti può capitare di parlare con il governatore di una regione al mattino e a mezzogiorno con qualcuno che ti ucciderebbe volentieri. Mi chiamo Davide, ho 42 anni e sono di Lecce. Sono il responsabile immobiliare di una multinazionale che si occupa di sport. Il lavoro più bello è quello che faccio il sabato e la domenica, perché sono papà di Dario, marito di Emi e il padrone di Luna. Anche se non ho mai capito veramente chi è il padrone dei due. Un mestiere strano e solitario, il responsabile dello sviluppo immobiliare di un'azienda, altresì detto l'espansionista. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, anche oggi, anche il giorno di Pasquetta, anche il primo di aprile del 2013, a raccontare ogni giorno la storia di una persona, ogni giorno un piccolo episodio che racconta qualcosa di quella persona e quindi in qualche modo la mette a nudo. La mette a nudo chiaramente col suo consenso, perché noi chiediamo di raccontare, lo chiediamo tutti i giorni, lo facciamo anche oggi, di raccontare appunto una piccola storia che racconti qualcosa di voi e che abbia le caratteristiche di una storia. Quindi che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine. Inviatelo a voi siete qui, @radio24.it, e noi vi facciamo diventare parte di una storia più grande, che è la storia di questo paese, di queste persone che lo abitano, che lo fanno oggi nel 2013 e non lo fanno invece 50 anni fa, perché altrimenti se l'avessero fatto 50 anni fa il programma sarebbe stato trasmesso nel 1960. Invece oggi raccontiamo la storia di Davide, che è la storia, appunto, come dice lui, la storia di un espansionista. Devo dire che quando io l'ho letta, ma anche quando Tiziano ha letto questa storia, e come facciamo sempre, ci confrontiamo riguardo le storie che arrivano, come potremmo raccontarle, da che punto prenderle, come sviscerarle, ci siamo detti: io non ho capito benissimo che cosa dice questa storia, di che cosa parla. Sembra però un episodio di Gomorra, un libro che tutti hanno letto, o comunque tutti ne hanno sentito parlare, meglio, non tutti hanno letto, alcuni ne hanno letto dei pezzi, e rimanda a un mondo di, ovviamente, di criminalità, un mondo legato al pericolo. E questa storia racconta quella cosa lì, di questo tizio che è in giro in automobile, prima col suo capo, poi da solo, e si inoltra con quest'auto in una stradina di campagna, arriva in questo posto che lui stesso definisce una favela, per incontrare un personaggio al quale deve chiedere qualcosa. Questo personaggio è il Massaro. Ecco, vi dico solo questo per introdurvi la storia, perché effettivamente è una storia che i giornalisti, come si chiamano quelli che raccontano le storie, come si chiama quella che racconta le storie maledette, presente? No, la storiaccia è la Calandra. No, quella che fa il programma televisivo Storie Maledette. Vabbè, comunque, quella giornalista lì, la storia di oggi la definirebbe una storia a tinte fosche. Noi non lo facciamo perché non siamo giornalisti, però è un po' così la storia di Davide. Quindi però rimbalziamo come al solito su di voi, 349-238-6666, ma anche sul profilo Facebook del programma, che voi siete qui, Radio 24, il lavoro che in qualche modo avete fatto, che è stato il più pericoloso, che fosse dichiaratamente pericoloso, perché magari lavorate, che so io, a contatto con cose che potevano essere rischiose, oppure semplicemente lavori che non lo erano e che invece lo sono diventati, come ad esempio è arrivato prima un messaggio di l'avevo visto, non è questo, non è, eccola qua, Paola. Facevo la cameriera in un bar. E uno dice: cameriera in un bar, no, non è un mestiere pericoloso. Mi è capitato di trovarmi in mezzo ad una rissa da Far West, dove volavano le sedie, e tutto era cominciato per una discussione su chi fosse in paese il camparo più bravo. Ora, per chi non è di paese, probabilmente non ha a che fare con i campi, il camparo è, o il campè, detto altrimenti dalle mie parti, è quel tizio che apre, fa scorrere l'acqua nei canali di irrigazione e irriga i campi, o li allaga, se sono, come nel mio caso, le risaie. E il camparo è un personaggio che di solito va in giro con degli stivali, un motorino e un come si chiama? Un badile infilato da qualche parte nel motorino, perché lo usa per aprire queste piccole chiuse. E vabbè, mi divertiva l'immagine del camparo. Giorgio, sono stato un carabiniere, ho lavorato negli stadi per fare sicurezza. Beh, la sicurezza non era sicuramente la nostra, considerato che ci lanciavano contro qualsiasi cosa, e non parlo solo di insulti. 349-238-6666, il mestiere più rischioso, più pericoloso che avete fatto, anche se come Davide non siete stati mai degli espansionisti. Un periodo di sconforto. Mi sentivo indietro rispetto al mondo. Mia moglie allora incollò un post-it sulla mia bacheca, un proverbio cinese, che è diventata la mia regola. Dice così: non avere timore di avanzare lentamente, abbi paura solo di restare immobile. Se oggi io fossi chiamato a prestare la mia opera in un'altra azienda rispetto a quella in cui lavoro, quello che di me comprerebbero sarebbero informazioni, formazioni, studi, conoscenza del territorio, leggi, capacità di analisi delle posizioni e del mercato. Un bagaglio disponibile e operativo, così dall'oggi al domani. E infatti, con il mio capo, decidiamo di smontare tutto questo, di mettere in discussione tutto quello che so e che conosco, insomma, di ripartire da zero. 6 anni di mestiere e si fa tabula rasa. Ma immagino che lui apprezzi il valore di quello che so. Dovrebbe appoggiarsi a me in tutto e per tutto, essendo io il suo braccio armato in questo settore, visto che lui si occupa fondamentalmente di altro. Abbiamo già dato delle belle prove, io e lui. Immagino si fidi di me. Non lo so per certo, ma me ne vado così per intuizione. Faccio resistenza, all'inizio è normale, ma la resistenza poi diventa reazione. E poi siamo simili, siamo incazzosi come pochi. E lui me lo concede, ogni tanto, di incazzarmi. Penso che rispetti anche la mia maggiore età e le spalle grosse su cui è incollata la mia faccia da bamboccione. Tutto questo servirà. Non lo so per certo, ma me ne vado per intuizione. Il mestiere dell'espansionista è sostanzialmente quello dell'esploratore, quindi giro per campagne, per città, per trovare un posto dove possa sorgere un nuovo negozio, e quindi da lì poi inizio la negoziazione con la proprietà, se riesco a trovarne una, e poi da lì parte tutto un progetto che devo presentare all'interno della mia azienda, dove vengo massacrato dagli investitori che cercano chiaramente di non buttare via i loro soldi. Un giorno io e lui facciamo un giro nella città che già conosciamo. Dopo un po' di siti e di chilometri imbocchiamo una strada che subito si fa stradina, poi strada privata, poi strada dissestata, poi tratturo e poi sbocca in una sorta di favela. Una specie di canile improvvisato misto pollaio, lamiere zincate e reti arrugginite. Il capo mi fa girare la macchina e mi incita a sgommare anche in retromarcia se serve, prima che sbuchi qualcuno a smontarci in sequenza, ruote, motore, sportelli, arti inferiori. Ce ne andiamo e continuiamo la prospezione. Servirà anche questo, non lo so per certo, ma vado così per intuizione. Giorni dopo ci vado ancora, però da solo, nella città che già conosciamo. Su un mosaico di terreni all'appello manca una delle tessere più importanti. Riesco a reperire un numero di cellulare, una botta di fortuna. Mi hanno detto del massaro che è un mezzo pazzo, ma io non ci credo. Ho imparato che la verità non è mai quella che viene raccontata, soprattutto quando ci sono in gioco interessi contrapposti. Mi porto in zona e lo chiamo. Lui mi chiede se ho già parlato con i suoi confinanti. Io rispondo di sì. Lui cambia tono, sembra seccato. Forse quello che mi hanno raccontato non era proprio campato in aria, penso. Lui mi indica il percorso mentre guido, tipo navigatore telefonico. Stanno arrivando le prime folate di caldo di Scipione, ma io inizio a sudare freddo, e non è per il condizionatore dell'auto. È che riconosco la strada e la monnezza che si fanno tratturo fino alla favela. Su una lamiera qualcuno con un pennello e della vernice rossa ha scritto «Procedere a passo d'uomo, transito di animali». Non c'è scritto proprio così. La lingua usata sembra uscire da una farsa di Abatantuono, ma io vado così per intuizione. Mentre faccio l'ultimo tratto di strada, chiamo il capo, gli racconto, mi chiede se voglio essere richiamato da lì a un'ora. Ci penso e gli rispondo: facciamo 20 minuti, va. They shot me down in Smolensk, where I lost my eyes, you see. It was a Wehrmacht soldier who put this mark on me. I was enrolled in Tula, summer of 43. My father was a gulag, and I had the speed on him. Arrivo davanti al cancello di una villetta nascosta al centro della favela, una casa di campagna di aspetto decente. Compare un vichingone, robusto robusto, con la barba biondo rossiccia, pantaloncini e maglietta dell'Italia. Ha l'aspetto rassicurante di un rugbista che ha perso tutte le partite della carriera. Non mi sorride, non dice una parola. Apre il cancello e mi fa cenno di entrare. In profondità, sulla soglia di casa, una specie di Walter Matthau, mani ai fianchi, mi squadra con odio. Odia i suoi confinanti e odia me, che ho parlato con loro prima che con lui. Quando gli arrivo vicino e gli tendo la mano, lui me la lascia nel vuoto, che sembro Fantozzi. Mi dice in dialetto di entrare. Non ne sono certo di quello che dice, ma vado così per intuizione. Ci sediamo intorno a un tavolo. Gli spiego che cosa voglio e perché sono lì. Mi fa parlare guardandomi fisso, senza neanche battere le palpebre. Ho abbastanza mestiere per sembrare sicuro ed esporre anche mentre penso a tutt'altro. Infatti, mentre sciorino metri quadri, volumi e condizioni sospensive, davanti agli occhi mi passano delle foto. Me da piccolo, in piscina, con papà e mamma. Gli esami di maturità. Io vestito da cadetto. La laurea, il matrimonio, un po' di piani sequenza di mio figlio. Il tutto inspiegabilmente in bianco e nero. Finisco la mia esposizione. Prende la parola lui, il Massaro. Non capisco esattamente quello che dice perché usa un dialetto stretto, una sfilza di suoni chiusi e tronchi. Quando mi hai detto di avere già parlato con i vicini, ti ho fatto venire e mi sono detto: mo che arriva al cancello lo guardo in faccia e vedo che tipo è. E se mi regolo, gli sparo nelle cosce. Poi ho visto sto guagnone di 28 anni e ho deciso di ascoltarti. Da noi il Massaro è il proprietario di una masseria. Ero riuscito a risalire alla proprietà e lui era il proprietario di questo terreno. E quindi mi sono trovato a dover parlare con lui per forza, perché dovevo necessariamente chiedergli se aveva la disponibilità a venderlo e ad accettare tutta una serie di condizioni particolari che sono legate ai nostri progetti. Afferro una parola ogni tre di quello che dice, ma vado per intuizione. Felice, mi dimentico della prudenza. Veramente ho 41 anni, gli dico. Niente, un cretino. Sono un cretino. Penso però a quanto è bella la mia religione, che mi promette tanta gioia in cielo quanto più grande sarà stata la sofferenza in terra. Invece, a sorpresa, il tipo si scioglie in un sorriso e si complimenta. Mi dice che da come parlavo gli pareva strano che poteva essere così giovane. E poi la fede al dito. E giù complimenti per la mia faccia pulita e sincera. Sempre nello stesso dialetto, quindi non so se dice proprio così, ma sono vivo e vado per intuizione. La faccia da bamboccione mi ha portato bene un'altra volta, ma non è finita. C'è la prova finale. Data l'assonanza del mio cognome, mi chiede di recitargli il 5 maggio. Penso che questo sarà il mio epitaffio, oppure la mia definitiva salvezza. E infusi come immobile, dico. E intanto penso al post-it di mia moglie. Passo l'esame. Pacche sulle spalle e vienimi a trovare quando vuoi, eh? Per te un piatto di pasta e un caffè ci sono sempre. Poi all'improvviso si rifà serio, mi guarda e mi dice: però ai miei vicini gli devi dire che gli deve venire il bigattino nelle carni, così muoiono vomitando. Io saluto e riprometto di fare presente appena possibile. Salgo in auto e parto. Avanzo lentamente, come ammonisce la scritta sulla lamiera. E mi torna di nuovo in mente il post-it di mia moglie. Un mestiere solitario il mio, il più bello del mondo. Peccato che a volte non hai le prove per raccontarlo. Maybe I'm a fool, or maybe I'm mad. Attilio scrive al 349-238-6666, visto che si parla di mestieri pericolosi, in qualche modo, che lo siano o che non lo sembrino ma poi lo diventino, sono un pulitore acrobatico, puliamo le facciate di edifici imbragati e appesi anche a 100 metri di altezza. Ah, ho capito, sono quelli che invece che montare le impalcature si appendono dall'alto e si calano giù. Mi è capitato di vederli ogni tanto. 349-238-6666, si parla appunto, come vi dicevo, di mestieri che in qualche modo hanno un certo grado di rischio, di pericolosità. E tutto questo è cominciato anche oggi che è Pasquetta ed è festa, perché si parlava di un lavoro particolare che io non avevo mai sentito prima, che è il lavoro di Davide, che fa l'espansionista. Pronto Davide? Pronto. Come stai? Bene, grazie Matteo. Correggimi se sbaglio, tu fai l'espansionista, giusto? Sì, Sì, l'espansionista è una parola strana, forse mette anche un po' paura, in realtà poi è un mestiere basato sulla curiosità. Me l'hai già spiegata in apertura, però mi dici velocemente, di fatto, anzi provo a riassumere io e tu mi dici se sbaglio, tu lavori per una società che fa altro e ti occupi di espandere le proprietà immobiliari? Esattamente, di creare nuovi negozi per la mia società. Quindi la tua società, lo possiamo dire o preferiamo non dirlo, di cosa si occupa? La mia società si occupa di commercio nella grande distribuzione di articoli sportivi. Ah, ok, quindi una cosa diciamo abbastanza normale, no? Perché dal racconto sembra veramente un po' un pezzo di Gomorra il tuo racconto. Quando l'abbiamo letto dicevamo questo è un novello Saviano che sta facendo delle indagini per scrivere un libro, oppure appunto fa un mestiere molto particolare. Quindi da quello che dici si fa commercio di articoli sportivi, è una cosa abbastanza comune, cioè abbastanza comune, abbastanza tranquilla, con un grado di rischio abbastanza basso, se non quello di rompersi i legamenti crociati di un ginocchio. La parte finale è quella, però nella creazione di un negozio c'è l'esplorazione, la ricerca di un terreno, e quindi poi il proprietario del terreno sostanzialmente può essere chiunque, da uno che è del settore, da un operatore, ma molto spesso è il proprietario di una masseria, un contadino, semplicemente uno che si ritrova il terreno in eredità e non si aspetta mai che io gli vada a bussare alla porta. Ecco, perché questa è la questione, tu non è che cerchi gli annunci immobiliari, giusto? Tu vai no. Da gente che non ha minimamente pensato di vendere il proprio terreno. Sì, il più delle volte sì, cerchiamo proprio di evitarlo, e la struttura è fatta proprio per evitare tutte le intermediazioni che spesso sono costose e spesso sono inutili. Tu vai lì, ti presenti, buongiorno, c'hai la tua bella faccia da bamboccione, come dici tu. Che bella faccia da bamboccione. Che ti aiuta e gli offri dei soldi subito, oppure ci sono dei gradi di approccio? Non ci sono dei gradi in realtà, perché il biglietto da visita, il nome dell'azienda ormai è abbastanza noto, quindi è normale che sto parlando di acquistare un terreno. Ma prima di arrivare al contenuto economico cerco di spiegare che cosa comporterà legarsi a un contratto, perché è un procedimento spesso lungo, condizionato all'avveramento di tante cose, quindi si parte un po' alla lontana effettivamente, si parte un po' dalla struttura. Senti, ma ogni quanto tu vai in giro a fare giri esplorativi come questo qua che racconti? E il 60-70% del nostro tempo è investito così, è sempre nella ricerca, perché anche le città che conosci bene o i territori che conosci bene ti possono riservare delle sorprese gradevoli dal punto di vista del lavoro, però questo lo fai solo con la ricerca. E poi il resto monti in ufficio e ti confronti, ma veramente poco, con i colleghi. In, diciamo, che zona, che in che zona operi tu? Io Puglia e Basilicata. Senti, invece torniamo all'episodio lì, al Massaro, com'è finita? Com'è finita dal punto di vista del progetto o dell'episodio? No, del progetto, cioè l'hai portato a casa o no? No, il progetto l'abbiamo portato a casa in un terreno vicino, in realtà, che era più appetibile, però i rapporti sono rimasti buoni con il Massaro. Ecco, perché infatti la domanda era se uno non ha intenzione di vendere, come se semplicemente grazie, arrivederci, oppure c'è un secondo piano, un approccio diverso, c'è un rialzo dell'offerta? Dipende, diciamo che si sviluppa una certa capacità, senza presunzione, di capire il no dell'interlocutore, se è un no deciso o se è un no al rialzo. In quel caso è la situazione più normale in cui ci si viene a trovare. Se è un no deciso, le motivazioni sono forti e non ti richiameranno. Mi è capitato di fare telefonate a distanza di 6 mesi, 1 anno, e l'idea non era cambiata assolutamente. E dopo un no e un silenzio da parte mia di un po' di tempo ti richiamano. Senti, che cosa hai studiato? Come ci si prepara per diventare espansionista? Non ci si prepara, perché si arriva dalle parti più disparate, ci si diventa un po' facendo il mestiere, perché è un mestiere davvero generalista. Sono molto richiesti gli ingegneri e gli architetti per la conoscenza dell'urbanistica. Certo, certo. Io sono laureato però in economia e ho studiato geografia economica, per una serie di coincidenze mi sono ritrovato a fare il lavoro per cui ho studiato, sono uno dei pochi fortunati forse, Poi diventi espansionista perché devi diventare generalista, frequenti la pubblica amministrazione, il catasto, le norme urbanistiche, le norme sul commercio, può sembrare noioso, poi in realtà è molto interessante. No, no, più che altro hai elencato una serie di cose, catasto, norme, che sembra veramente uscito da Le mani sulla città, quel film in cui ci sono quelli che inizia con questi che fanno un cerchio nella terra e dicono da qui in avanti costruiremo tutto. Insomma, così, però meno arido di quello che può sembrare, è davvero molto avventuroso alla fine, perché si tratta anche di far sognare l'interlocutore, e l'interlocutore più difficile da far sognare è l'amministratore e il burocrate. Senti, e l'ultima cosa, poi ti saluto, sei stato anche un cadetto? Sì. Di che accademia? Modena, cioè Accademia Modena. Militare, quindi. Accademia Militare. Accademia Modena, Militare. Sì, sì. Davide, io ti ringrazio per la chiacchierata. Ci sono un sacco di cose che vorrei chiederti ancora, ma purtroppo non ho più tempo e ti devo lasciare. Ti ringrazio però per la storia, che era scritta molto bene e ha dato una bellissima immagine di quello che fai. Grazie ancora. Grazie a te, un abbraccio. Ciao Davide, buona giornata. A presto, ciao. Ciao. Voi siete qui. È con suo figlio Davide nella foto che ci ha mandato e che trovate come al solito sul sito di Radio 24, la pagina di Voi siete qui. Ha una faccia molto simpatica suo figlio, che ha il ciuccio in bocca e un cane di pezza, di peluche. Ed è verissimo quello che dice Davide, che ha la faccia più che da bamboccione. La faccia, forse perché non ha tantissima barba, non lo so, o perché non ha capelli bianchi, però sembra veramente, veramente un ragazzone. Espansionista. Sostantivo maschile e femminile e aggettivo. Fautore dell'espansionismo in politica. Etimo derivato di espansionismo. Data 1914-1915. Vedi qual è il bello di avere Alessandra De Luca che legge le definizioni? È che anche quando la definizione del termine, della parola chiave della puntata, non c'entra assolutamente niente col racconto, tu comunque te la stai a ascoltare. Perché il termine espansionista usato da Davide, evidentemente la definizione professionale di espansionista, non è ancora entrata nel vocabolario, o perlomeno non in quello che usiamo noi. E quindi abbiamo dato la definizione che è la definizione, diciamo, più antica di espansionismo, di espansionista, di espansionismo, che è quella di allargare la propria sfera di interesse e di influenza per quanto riguarda appunto un partito, un'istituzione, eccetera, eccetera. Diciamo, questa non è la definizione della puntata, ma è la definizione principale del termine espansionista o espansionismo. 349-238-6666, ovunque siate, se siete in macchina e tornate dalla gita di Pasquetta, se piove o se c'è bello dove vi trovate, avete l'opportunità di raccontarci in diretta qual è stato il mestiere o qual è il mestiere più pericoloso, più a rischio che avete fatto. Pietro scrive: da ragazzino ho lavorato in un'acciaieria. Mi occupavo delle colate di acciaio e, nonostante tutte le precauzioni possibili tra maschere, guanti e scafandro, che immagino sia un abbigliamento apposta per chi lavora in acciaieria, poteva succedere che qualche lapillo partito dalla siviera si infilava nel collo come una goccia di pioggia, solo che quella goccia raggiungeva i 300-400 gradi. Io un mesetto fa ho avuto l'opportunità di andare un paio di giorni in un'acciaieria vicino a Brescia e di parlare con le persone che, come Pietro, fanno ancora quel mestiere lì, perché anche se non sembra, per quelli che vivono nelle città, l'industria pesante esiste ancora e quel mestiere lì esiste, come se esiste, le persone che lo fanno quel mestiere lì, e mi raccontavano proprio questa cosa qua, che ogni tanto, per quanto ci siano tutte le misure di sicurezza possibili, visto che oggi si parla di quello, di mestiere a rischio, ogni tanto ad alcuni che fanno questo mestiere qua, che come dice Pietro lavorano in siviera, che credo che siano i grandi contenitori dentro i quali viene fuso l'acciaio, credo, a naso, non ricordo bene, parte qualche lapillo infuocato, e loro mi raccontavano come se niente fosse, che questa roba si infila nel collo, loro si scrollano per farla scendere, la cosa scende ed è finita lì, poi si fanno la doccia e c'hanno sulla pelle chiaramente la riga del lapillo che gli è sceso. Ecco, questi sono i mestieri pericolosi. E mi ricordo che, visto che parlavamo di sicurezza, anche con loro mi dicevano: beh, sai, qualsiasi lavoro ha un livello di rischio. Io dicevo: guardate, No, vi assicuro, il mio no. Io posso chiudermi la porta, il dito nella porta dello studio al massimo, ma non che un lapillo infuocato mi entri lì. 349-238-6666, Silvano. Io di secondo mestiere faccio l'arbitro di calcio in categorie ancora basse, ma appunto la Serie A. Puoi immaginare il livello di rischio. Ecco, Silvano, io con te e con tutti quelli che fanno questa roba qua, cioè come secondo mestiere fate l'arbitro, la prima domanda veramente che mi sorge naturale è perché? Cioè perché decidere di fare un mestiere che è... che primo credo sia sottopagato. Non ho idea di quanto guadagni un arbitro di Serie A, però già il fatto che non è un mestiere professionale, cioè non è la propria professione, vorrà dire che no, non guadagni tantissimi soldi. Poi io posso capire che uno immagini che ci sia dell'autorevolezza nel fare l'arbitro, ma perché? È una roba veramente che a cui non è nemmeno riconosciuto. Quando l'arbitro fa bene, semplicemente come se non ci fosse stato. Forse è quello, forse è quello. Forse è il fatto che uno quando fa bene non è riconosciuto e allora, boh, si autoriconosce. Vabbè, sto dicendo cose che non hanno senso. 349-238-6666. L'avete sentita la storia di Davide? Aveva qualcosa a che fare con tutte le storie che si raccontano, più che riguardo al libro in sé, a Gomorra, di Roberto Seviano, intorno a Gomorra, no? Anche se non l'avete letto, sentite che c'era quel profumo lì nell'aria, quella roba di rischio e di qualcosa di illecito, che in realtà non c'era, perché è tutto legale quello che fa lui. Lui va in giro a chiedere: vuoi vendermi il tuo terreno? Sì, no, grazie, arrivederci. Però quell'aura lì c'era. Bene, io ho ripreso in mano Gomorra stamattina, sapendo che dovevamo farci la puntata, e mi sono riletto il primo capitolo. E al di là di tutto quello che si dice del libro e di tutto quello che si dice di Saviano, per cui ci sono persone che lo amano, persone che lo amano un po' di meno, il primo capitolo sembra veramente un film meraviglioso per come è descritto, soprattutto per la prima storia. La prima storia, quella che voglio leggervi, è proprio la primissima pagina del libro, in cui l'immagine che ne viene fuori è un'immagine terribile e folgorante. Il container dondolava mentre la gru lo spostava sulla nave. Come se stesse galleggiando nell'aria, lo spreader, il meccanismo che aggancia il container alla gru, non riusciva a domare il movimento. I portelloni mal chiusi si aprirono di scatto e iniziarono a piovere decine di corpi. Sembravano manichini. Uscivano dal container uomini e donne, anche qualche ragazzo. Morti, congelati, tutti raccolti l'uno sull'altro. In fila, stipati come aringhe in scatola. Erano i cinesi, quelli che non muoiono mai. Gli eterni che si passano i documenti l'uno con l'altro. Ecco dove erano finiti. I corpi che le fantasie più spinte immaginavano cucinati nei ristoranti, sotterrati negli orti intorno alle fabbriche, gettati nella bocca del Vesuvio. E invece no, erano lì. Ne cadevano a decine dal container, con il nome appuntato su un cartellino annodato a un laccetto intorno al collo. Avevano tutti messo da parte i soldi per farsi seppellire nelle loro città, in Cina. Si facevano trattenere una percentuale dal salario. In cambio avevano garantito un viaggio di ritorno, una volta morti. Uno spazio in un container e un buco in qualche pezzo di terra cinese. Quando il gruista del porto mi raccontò la cosa, si mise le mani in faccia e continuava a guardarmi attraverso lo spazio tra le dita, come se quella maschera di mani gli concedesse più coraggio per raccontare. Lui aveva visto cadere corpi e non aveva avuto bisogno neanche di lanciare l'allarme o di avvertire qualcuno. Aveva soltanto fatto toccare terra al container e decine di persone comparse dal nulla avevano rimesso dentro tutti i corpi e con una pompa ripulito i resti. Era così che andavano le cose. Lui non riusciva ancora a crederci. Sperava fosse un'allucinazione dovuta agli eccessivi straordinari. Chiuse le dita coprendosi completamente il volto e continuò a parlare piagnucolando, ma non riuscivo più a capirlo. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Con la notte a Napoli, terra stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò. Il cielo mi portò, il cielo mi portò, cielo mi portò. 349-238-6666. C'è gente che giustamente mi scrive: io Gomorra non l'ho mai letto. E avete ragione, non si può dare per scontato. Però, insomma, non l'avete mai letto, ma sapete di cosa stiamo parlando. Pierpaolo, invece, a proposito di mestieri a rischio, ha scritto: ho fatto il caddy. Il caddy è quello che porta le mazze da golf per i giocatori di golf. E una volta mi sono ribaltato con la macchinetta elettrica, a proposito di lavori che non sembrano a rischio, invece lo sono. Poi, devo dire, ringrazio Giordano. C'è una categoria di messaggi che arrivano, è da un po' che non li leggo, che amo definire messaggi fuori contesto. Quelli che non c'entrano nulla col tema della puntata e spesso non c'entrano nemmeno con il programma. Quello di Giordano è parzialmente fuori contesto. Scrive: sono un edicolante, ascolto Radio 24 tutti i giorni, ma solo oggi che è festa posso scriverti ciao. Grazie Giordano. Salvatore invece mi scrive: sono un pescatore, ieri pomeriggio sono rientrato in porto con venti di levante a 35 nodi e mare formato. Che per chi bazzica un po', 35 nodi sono più o meno 60 km all'ora di vento e sono tanto in mare. E mare formato, immagino con onda. A proposito di mestieri pericolosi, oggi, nonostante si parlasse di mestieri, era un giorno di festa. Io vi auguro di continuarlo ancora quanto possibile nella serata, e in modo che possiate, insomma, dimenticarvi che domani è martedì, è come se fosse lunedì, però almeno un giorno è già andato. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni. Grazie soprattutto a Davide. La storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa.